di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Franco Piantaneda, il nostro autore, di Roberto Scaltretti in regia, di Claudia Schiattone in redazione e di che c'erano una volta Icardi e Maxi Lopez e Vandanara e una mancata stretta di mano e un rigore sbagliato e un'esultanza smodata e un Sampdoria-Inter che fece molto discutere. Ambrosio morbido per Palacio, Icardi è solo, il cross per lui, Icardi! Sampdoria 0, Inter 1! Ancora Samp in attacco, Castaldello messo giù, calcio di rigore! Parte Maxi Lopez e la parata di Handanovic! Kovacic dentro per Palacio, Palacio dentro per Icardi! La doppietta di Mauro Icardi! Lui doveva non fare il gesto dell'orecchio, non lo so nemmeno che ha fatto. Tu avresti stretto la mano ai Icardi? Sì, bisogna farle queste cose qui, però sono cosette che sono state così, non postarne dietro. Non lo so, sai, la colpa tanto è solo della moglie. L'avresti stretto la colpa è solo della donna. Vabbè, ma adesso c'è in un turno infrasettimanale interessante un Inter-Sampdoria che sale di livello, perché c'è il Viperetta che ci va giù durissimo con Tohir, c'è Mihajlovic, presunto oggetto del contendere tra i due club. Sinisa che non parla mai, ci sono dei ruoli, ci sono degli arbitri bravi che fanno il loro lavoro e fuori gioco, accettasse la sconfitta e basta, no? Se annullava la Samp, è opinabile quello che dice lui. CT lì è dura, perché sono due grandi importanti. Se posso dire la mia, io vedrei Mihajlovic, cioè se vuol liberargli uno stipendio. No, voglio fargli un contratto per 10 anni, ma però con CT vedo Mihajlovic. No, la domanda è, visto che vuole guardare al futuro, ha fatto i complimenti a Zeman, lo vorrebbe la Sampdoria? Ma io a Mihajlovic, chiedo scusa a Zeman, ma a Mihajlovic me lo tengo stretto. Senza togliere niente all'inventore del calcio. Perfetto. Punto, però Mihajlovic è mio. Dopo avermi vinto viene facile. Non lo so che diceva. L'ho sempre detto, Zema, l'ho sempre dichiarato. Ma non ha timore che l'Inter magari in futuro possa provare a portarle via l'allenatore, perché Mihajlovic è un pallino, essendo un ex nerazzurro? Io penso una cosa. Quando tu sei fidanzato, tra virgolette, passatemi il termine, con una bellissima donna, tutti la desiderano. Per adesso il mister è mio e me lo tengo stretto. Io gliel'ho detto a Moratti, caccia via quel filippino, no cazzo. E ovviamente il filippino si è incazzato e adesso l'Inter vuole reagire nelle opportune sedi per questa dichiarazione di Ferrero. Non so come sarà l'accoglienza del presidente sampdoriano domani a San Siro. Ho invece l'impressione che anche in questo caso sia un po' una questione di corna. Icardi Tohir starebbe segretamente corteggiando Vanda Mihajlovic e Maxi Ferrero non ci sta. Esagerando? Ditecelo voi. 800 24 00 24. Tra poco arriva Pardo, arrivano anche altri amici per commentare questa strana vigilia. Ovviamente ha parlato Allegri, ha parlato Garcia, non ha parlato Mazzarri, che è stressatissimo, ha mandato in conferenza stampa Hernanes, che ha provato a difendere il suo allenatore ed il suo club. Convocati. No, lì. E Intanto, visto che di questa vicenda parlano tutti, sto leggendo di un tweet di Evelina Cristillin sull'Huffington Post, che definisce Toir cicciobello a mandorla. Vediamo un po'. L'addio all'Inter della famiglia Moratti Adams. Ma come? Ma perché? Insomma, come faremo senza tutti quei denti in tribuna, senza gli abbracci frenetici delle loro smilze braccine, senza l'esultanza della Beri che salta per aria anche quando l'Inter segna in amichevole contro il Pertusa, scrive la Cristillin. È noto che tra noi bianconeri e nerazzurri non corra buon sangue da sempre, però questo non vuol dire che non si rispettino personaggi come Massimo Moratti, che comunque ha vissuto con esborsi di passione e portafoglio senza uguali. La dynasty interista della sua famiglia, che ha pagato di persona prezzi alti, anzi altissimi, sull'altare della memoria di suo padre e della formazione magica Sarti Buñes Facchetti, di Lenny Herrera, che ha dato alla sua squadra, a tutti i tifosi, unici momenti col triplete di Mue, che per amore, solo per amore, cito il nostro presidente Agnelli, ha accettato per la propria società uno scudetto non suo. E rieccheci. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? No, calciopoli no, dai, già ho dato ieri sera. Hai già dato ieri sera? Con ottimi ascolti. Ringrazio anche Calciopoli, Ciccio Valenti e Mughini che hanno fatto lì la caciara, li ringrazio, non sono ipocrita. Però ancora Calciopoli, dai. No, ma mica io, è la signorina Evelina sull'Huffington Post. Che c'entro io? Sei come quelli che danno la colpa a noi che ne parliamo. Che te devo dire? La volevo veramente affrontare così. Sì, era anche cominciata così, perché Lenoir ha detto una cosa da interista molto, molto tranquilla, molto serena, cioè, ma a distanza di 8 anni, veramente lo dico proprio con il candore di un bimbo, chiaramente non interessato a stare da una parte e dall'altra, ma a distanza di 8 anni ancora appassiona questa storia, e no, era anche per penso di dire, ma forse è una cosa fatta per strizzare l'occhio al tifoso, ho capito, sono partiti e... Andrea Sorrentino da Repubblica, buongiorno. Sorrentino, eccoci qua, buongiorno a tutti. Sorrentino era presente. Quante foto hai fatto stamattina, Sorrentino? Quante donne ti hanno già chiesto il numero di telefono? Ho dovuto mettere gli occhiali scuri perché sennò ero bloccato, guarda. Ecco. E mentre riporto un altro virgolettato della signora Evelina, che definisce Toir un piccoletto ciccione indonesiano che alla fine rileva, pensa a te, Giampiero Timossi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ma scusate, la galleria del vento che sentiamo, oggi faccio il figo e c'ho il telefono. È Sorrentino in galleria del vento. Chi è che fa questo rumore del vento? Chi è il colpevole? Io no, giuro, non c'è niente. Anche a Genova, sarete voi. Ma l'ho sentito la roba tipo. No, il rumorista fa. Io sto conto irlo, dico subito. Come hai detto, Giampiero? Io sto conto irlo, dico subito, basta. Stai conto ir, quindi contro Ferrero? No, contro Ferrero no, però insomma la battuta di Ferrero mi è sembrata assolutamente fuori luogo, non mi ha fatto neanche ridere, devo dire la verità. Poi insomma chi parla sempre, chi fa una battuta dietro l'altra, la serie rischia anche di tuffare un po'. Sì. Ma non hai l'impressione che anche in questo caso ci sia dietro una questione di corna? Cioè che si parla molto di si parla molto di Mihajlovic all'Inter, dai, si parla molto di Mihajlovic all'Inter. No, non credo che sia, non credo che fosse una battuta frutto di una gelosia di questo genere, frutto di gelosia, no. È una persona, io ho avuto occasione di parlare la prima volta col presidente della Sampdoria, sembra 2 o 3 giorni fa, in occasione di una, insomma, abbiamo scritto una storia di alcune persone che si erano avvicinate a lui in maniera forse impropria, inadeguata. E l'ho trovata una persona molto simpatica, però mi sembra davvero che in questo momento parli solo e soprattutto attraverso degli slogan, delle battute così. Credo che insomma gli piaccia questa nuova immagine che si è creato, non soltanto a livello genovese ma a livello nazionale. E poi bisogna dire la verità, i risultati lo aiutano, perché la Sampdoria sta facendo un fantastico campionato, la Sampdoria di Ferrero, quindi insomma tutto è permesso al presidente della Sampdoria, sì. Anche una battuta fuori luogo come quella fatta sul presidente dell'Inter Toir. Niente corna anche per Andrea Sorrentino e per Pardo? No, ma io penso, guarda, credo che davvero la popolarità improvvisa abbia provocato queste cose, perché ci sta che un personaggio magari che vive sotto traccia per molti anni, pur facendo un lavoro importante, improvvisamente salga alla ribalta e tutti questi elogi per la sua simpatia, per le sue battute, per il suo essere naif lo abbiano un po' così mandato fuori giri. Ci sta, di sicuro. Guardate, a me il politically correct non piace, mi è sempre sembrato un'ipocrisia assurda, e sono d'accordo con quelli che lo attaccano alla giugulare magari esagerando, però ragazzi, un personaggio pubblico un minimo di modo di fare, di dire e di essere deve averlo, se no qui salta proprio tutto. Allora tutti possono fare tutto. Sì. Ecco, pardon. La differenza che secondo me fra il blog della Cristeline e l'intervista di Ferrero, cioè sono proprio due cose diverse. Ferrero ha fatto una battuta chiaramente sbagliata, chiaramente inaccettabile, con dei contorni, si è anche scusato, insomma, secondo me si è fatto prendere, diciamo, dalla transagonistica di un personaggio simpatico, delle volte un po' eccessivo. Io ce l'ho avuto anche in trasmissione, siamo divertiti molto, è chiaro che con lui hai la sensazione che possa delle volte esagerare e dire delle cose strette all'entusiasmo, no? Quindi, per carità, non lo sto assolvendo, però insomma è comunque una battuta in una trasmissione televisiva. Il blog della Cristeline è una roba, o Cristeline, insomma, è una roba molto circostanziata, molto precisa, con tutta un'ironia. Ironia. Alla però, faccia, insomma, dell'ironia. No, appunto, però anche piuttosto offensiva, insomma, piccoletto ciccione indonesiano, insomma, sì, una delle cose fondamentali in generale del garbo e dell'eleganza è non imputare alle persone i difetti fisici, ammesso che siano difetti. Certamente. Insomma, io sono ciccione e voglio dire, no, vabbè, Moratti è un dentone, Toire è un cicciobello indonesiano, no, secondo me. Oppure la battuta sulla Bedi che salta in aria anche quando che vuole contro il Pertusa. Insomma, sinceramente non mi sembra, da un personaggio comunque che ha avuto responsabilità, che fa parte organicamente del mondo Juve, aspetto qualcosa di diverso. Una cosa del genere la può dire un comico, un cabarettista schierato, e fa parte, sono d'accordo con Sorrentino, fa parte assolutamente dello sfottò, cioè, ripeto, non c'è niente di male. Da personaggi però che hanno avuto un ruolo istituzionale, che in qualche modo si può pensare che rappresentino il pensiero della famiglia Agnelli, del consiglio di amministrazione della Juve, insomma, non mi è sembrata una cosa così illuminata. Io continuo ad avere una sensazione positiva, nel senso che io non mi sono dimenticato quello che dicevamo quest'estate sugli acquisti dell'Inter, e dicevamo non ero solo, c'era gente che diceva che finalmente c'era una squadra organica, ha fatto un grande mercato, quindi aspettiamo un attimo. Non starei, Moratti ci ha messo un po' per vincere, per tornare a vincere. Sì. Io volevo chiedere solo una cosa, io assolutamente sono contrario al politicamente corretto. Trovo che non sia neanche colpa di Ferrero o della Cristeline, come si dice. Credo che sia colpa di chi raccoglie, raccatta e si esalta a qualsiasi battuta, anche a battute di questo livello. Se bisogna che si aiuti in qualche modo certe persone ad esprimersi in maniera adeguata e a crescere in maniera adeguata. A me non fa ridere la battuta di Ferrero, non fa ridere, io sono cicciottello, quindi figurati, poi sto tutta la vita dalla parte di Toir, quindi ma neanche quella della signora fa ridere, Giampiero. Ma non fa ridere neanche quella, no? Quindi voglio dire, Ferrero si è abituato probabilmente in queste ultime settimane a vedere un pubblico che si esalta per qualsiasi battuta lui faccia, e quindi si è lasciato scappare anche questa battuta, che non faceva semplicemente ridere. Non dico che sia politicamente scorretta o politicamente corretta, era una battuta insipida, fuori luogo, certamente, senza nessun tipo di... No, ma ti dico, a me è venuto il sospetto che ci fosse dietro qualche cosa, perché le voci di Mihajlovic, corteggiato dall'Inter, mi sembra possono essere rientrate nell'ambito del realistico. Non è così, no. In questo io riconosco a Ferrero, al di là della condanna per la battuta che non è assolutamente elegante, però mi sembra di poter dire che lui ha una spontaneità e che per carità, ripeto, non lo assolve, però insomma io non credo che lui abbia fatto questa battuta, che ci sia chissà quale rivalità dietro, chissà quale dietrologia. Io penso che abbia fatto una battuta perché, come diceva prima Sorrentino, è un personaggio nuovo negli studi televisivi, è oggettivamente molto simpatico, è un trascinatore. Io ho fatto una puntata di Chitaga straordinaria, mi sono divertito da matti, e come me tantissime altre persone, è in un grande momento ed è in un momento nel quale si sente di poter dire tutto, insomma. Egli è partita questa cosa. E ha capito, l'abbiamo visto dal comunicato successivo, che ha capito di aver fatto una cazzata. Io voglio chiedere a Giampiero Timossi invece se risulta tutto a posto sul fronte finanziario relativo a Ferrero, cioè quello della Sampdoria, stipendi, pagamenti, tutto quanto, tutti in ordine? Sì, ma c'è stata una, sì, al momento risulta tutto in ordine, c'è stata una forte riduzione, c'è una politica nuova. È evidente che questo presidente ha un modo di gestire la società in maniera particolare. All'inizio non ha dovuto investire, lo sappiamo tutti, nessun tipo di capitale, perché insomma la Sampdoria gli è stata lasciata così. La squadra ha fatto le cessioni e ha fatto le scelte che erano già state fatte dalla precedente gestione, perché voglio dire, cercare di vendere Romero, cosa che al momento non è ancora uscita, era un pallino già della gestione Garrone. La stessa cosa per Mustafi, che era un giocatore che doveva giocare per essere poi venduto, e adesso le cose stanno funzionando. Abbiamo certo un personaggio che ha fatto molto in questi giorni, gli va riconosciuto, si è dato molto da fare, lo sappiamo, il Genoa ha avuto una situazione, un'altra ennesima drammatica alluvione, e il presidente della Sampdoria, così come quello del Genoa, si è dato molto da fare. C'è stato nei giorni scorsi un episodio che abbiamo riportato nel Secolo, che poi hanno ripreso anche altri giornali come il Corriere della Sera o la Gazzetta, di un personaggio assolutamente sconveniente, diciamo così, che si è avvicinato al presidente Ferrero. È imputato, questa persona è l'ex tesoriere della Lega Belsito, è imputato in un processo a Milano, ma il presidente della Sampdoria ha smentito di aver dato delega a questa persona di gestire i fondi per gli alluvionati che la Lega deve destinare. Poi il giorno prima l'ha smentito al telefono con me, il giorno dopo l'ha portato, è un suo diritto, in tribuna d'onore allo stadio Luigi Ferraris, e va bene, però voglio dire, mi sembra che non ci sia assolutamente nulla da sindacare sulle scelte di chi un presidente invita o non invita in tribuna. Un altro discorso sarebbe stato se invece avesse dato da gestire dei fondi che la Lega Calcio mette a disposizione degli alluvionati. Ma questo l'ha smentito, prendiamo per buona la smentita. Giampiero, ti ringrazio. No, assolutamente sì. Grazie Giampiero. Io volevo chiedere ancora una cosa ad Andrea Sorrentino, poi dopo vado avanti con Pardo dopo la borsa. Un attimo solo. Andrea Sorrentino, volevo fare con lui volevo fare questa considerazione: la Samp è in un momento, in una specie di miracolo anche mediatico, l'Inter in una specie di drammone collettivo, e domani sera uno di fronte all'altra sul campo. Sì, poi sappiamo che le etichette che poi la stampa per dovere di sintesi affibbia spesso hanno così una loro superficialità, una loro genericità. Io nell'ultima Inter col Napoli e col Cesena non dico di averci visto del buono, ma un qualcosina di miglioramento rispetto al recente passato io l'ho visto, e secondo me è una squadra che ha bisogno così di trovare qualche sicurezza strada facendo, magari trovando, la può trovare contro un avversario così in salute come quello di domani. Di sicuro la situazione di Mazzarri dal punto di vista ambientale e anche un po' giornalistico, come stiamo vedendo, è abbastanza precaria. C'è chi davvero vorrebbe impallinarlo domani mattina. Il problema è che l'Inter, ma davvero, non ha in questo momento un piano B, non ce l'ha, perché non ha alternative valide per Mazzarri. Quindi anche i dirigenti sperano e pregano tutti gli dèi dell'Olimpo che questa squadra comunque rimanga in carreggiata, perché un sostituto per Mazzarri per motivi economici e tecnici non c'è al momento. Non c'è. Grazie Andrea. A voi, ciao. Grazie Andrea Sorrentino. Tutti convocati. Quello che mi fa piacere, sai, che sembra che la stampa ci sono pochi interisti, e quindi le persone, i padroni, no? Voglio sempre mettere noi in confusione, dire no, c'è la crisi, c'è questo. E questo mi sembra che hanno pochi interessi in giro per dare un po' di morale a noi. però quello che mi fa piacere è che abbiamo un presidente che ha dimostrato di essere una grande persona, che non va sotto pressione di quello che dicono i giornali, le TV A o B, ma lui dimostra di qua è casa mia, qua comando io e qua faccio come voglio io. Aiuto Pierluigi, Hernanes denuncia pochi interisti nelle redazioni, ci sono in giro pochi interisti, ci vogliono affossare. Ha parlato lui oggi, non Mazzarri, che non ce la fa riprendersi. La cosa più incredibile è questa. Quale? Ma no, io ci passo ogni settimana, c'è gente che ti dice ma come fai a invitare Mughini, e gente che ti dice ma come fai a invitare, che ne so, ieri sera c'era Ciccio Valenti, cioè il mondo è bello perché è vario. È chiaro che ci sono alcune questioni che sono regolate, diciamo, dal diritto e dalle sentenze, dai processi eccetera eccetera, però non si può impedire poi alla gente di parlarne, quello che succede nei bar di tutta Italia. Sull'aspetto strettamente tecnico dell'Inter non lo so, io sono innocentista su Mazzarri, lo sai. Ma sì, anche io. Io gli darei ancora una possibilità, anche perché non vedo delle grandissime alternative. E credo che se c'è un problema di Mazzarri è soprattutto dal punto di vista della comunicazione e dell'immagine che offre in certe circostanze, ma che in assoluto abbia dovuto lavorare quest'anno con un vento assolutamente contro fin dall'inizio, chiaramente dovuto anche alla passata stagione, non è stato lo Spirito Santo. Però insomma, però potrebbe anche rialzare un po' la testa, in fondo fa un bel mestiere, allena l'Inter, le critiche, ma signore Dio, cioè si può anche vivere in maniera un pelo più serena, no? Secondo me, fa un bel mestiere, alleni l'Inter, va bene, le cose stanno, sono difficili come in tutte le professioni, momenti difficili capitano, ma sulla testa andiamo in conferenza stampa e magari buttiamo qualche volta anche un sorriso. No, magari, infatti questo è magari. Anche e soprattutto perché ormai si è creata questa immagine, no? Quindi ormai è in qualche modo è diventato schiavo di questo personaggio e di questo stereotipo dell'essere sempre perennemente arrabbiato, e quindi sì, potrebbe provare a stupirci, però voglio dire, comunque alla fine non bisogna nemmeno e non si può nemmeno violentare un pensiero, cioè se lui la pensa così, evidentemente se si sente così è quello che esprime. Senti, allora io ti propongo adesso di parlare con Claudio e Corrado, che sono in linea, sono due ascoltatori, poi raccogliamo la lezione di giornalismo sportivo invece che ci manda Paolo, che è questa: non importa una sega delle battute di Ferrero, un vero programma di sport parla di Empoli, Sassuolo e non di Stucchevoli. Certo. Ma adesso tutta la seconda ora parleremo di Sassuolo Empoli, Empoli Sassuolo, certo, Sassuolo Empoli, tra l'altro. Paolo ha scritto Empoli Sassuolo perché ama lo sport e non le seghe mentali. Va bene, allora, però prima di Sassuolo Empoli, Claudio della provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità di poter parlare. Grazie a lei. E io sono un dirigente degli allievi del Pertusa, società che ha nominato. Ah, tombolone! Niente, volevo ringraziare la Cristellin per averci fatto della pubblicità. Io poi, tra l'altro, sono un tifosissimo dell'Inter, quindi con un piccione due fasi. Questa è la migliore di tutte. Se davamo ancora le magliette, era di Claudio. Le abbiamo finite, le facciamo ristampare. Le magliette tutti convocati, le abbiamo finite. Anzi, facciamo così: io vorrei sponsorizzare il Pertusa. Cosa ne dici, Pardo? Ma sì, dai, sono parte lutto. Insomma, ripeto, non mi è piaciuta, soprattutto perché a differenza dell'uscita di. Insomma, siccome a me capita nella vita di fare le due cose, no? Di scrivere degli articoli e di fare delle trasmissioni televisive, credo che nelle trasmissioni televisive comunque la possibilità di dire una battuta inappropriata sia, ripeto, non sto giustificando Ferrero, la battuta era sbagliata, completamente sbagliata, e secondo me è frutto di questo effetto, di questo entusiasmo improvviso nel poter dire quello che gli pare, dell'essere simpatico a tutti, e quindi è un errore gravissimo. Però un pezzo scritto, sia pure su un blog, che chiaramente, però sull'Affitto Post, per cui insomma su un blog comunque con una cornice molto importante, insomma lì le parole si pesano, Quando io scrivo un articolo cerco di pesare le parole, quindi e quindi l'intenzionalità secondo me è molto superiore, la volontarietà è molto superiore, e quindi anche l'idea eventualmente di offendere qualcuno secondo me è molto più pesante. Sì, però io ci tengo molto a Claudio e al Pertusa, a questo punto sì, è la mia, la mia, la mia prima squadra. Sono d'accordo sul fatto che cioè nei bar va benissimo tutto, nei bar va benissimo tutto, no? E secondo me non ci si può offendere più di tanto. A Roma, diciamo, a chi tocca si ingrugna, no? Roma è una città da questo punto di vista che fa dell'ironia e dell'autoironia anche cinica un marchio di fabbrica, quindi figurati se questa roba qui mi sembra grave. Però insomma, la Cristelin non è una semplice tifosa della Juve, no? È comunque una donna di sport che ha avuto un ruolo molto importante anche nelle Olimpiadi, fra l'altro fortunatissime, di Torino del 2006. Quindi insomma, forse un pochino più di attenzione me la sarei aspettata, ma immagino che sia scritto quelle cose perché voleva scriverle, quindi si sarà avrà fatto i suoi due conti. Tanto io chiedo pubblicamente a Marco Dall'Issone di darci aggiornamenti su Shane 9, Mumbai City, debutto di Materazzi che da mister ha messo in campo Anelka. Quindi chiedo a Marco Dall'Issone di farci la corrispondente, ci aggiorni, lo sta guardando in streaming. Corrado Milano, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, soprattutto per i super ospiti. Saluto Pierpardo, sono Corrado Dugo, mi riconosce. Dugo, il signor Dugo, al quale chiedo di parlare con l'accento di Liverpool, subito. Fucking Liverpool, I don't bother liking to Milan, you know? Yep. Please. Ok, chiamo per parlare, oltre che per salutarvi, per parlare di Mazzarri. Ora io sono un interista bello milanese, nervoso. Dunque, allora, io ho visto l'Inter Cesena 20 minuti e io, come la maggior parte dei miei amici interisti, non riusciamo più a vedere la partita per 90 minuti, cioè non ce la facciamo. Massimo 50-60. 50-60 sono tanti. Sono tanta e ho roba. Capito poi che la gente, sapete chi sono quelli che riescono a guardarla tutta? Sono gli stessi che poi vanno su Twitter e scrivono Mazzarri vattene, perché ovviamente dopo 90 minuti tu non ce la fai più e devi sfogarti. E quindi non lo sopportiamo più, il gioco è imbarazzante, mi danno fastidio anche i giornalisti quando dopo Cesena Inter dicono ho visto un pizzico di miglioramento, ma è una tragedia, quel pizzico non si vede. Vabbè, allora intanto 1-0 in trasferta, se non si vede un pizzico di miglioramento si vede comunque 3 punti in classifica. Sì, no, ma al di là dei 3 punti, secondo me è un pizzico di miglioramento, ma soprattutto mancano le alternative, cioè voglio dire, in questo momento non è che c'è molto altro da fare, il mercato è chiuso. Sì, l'alternativa è cacciare Mazzarri e andare sul mercato a prendere, non so, Zenga o per carità, o qualcun altro. A me sembra sinceramente che la situazione dell'Inter meriti ancora un filo di attesa. Mi aspettavo cose diverse, sembrava ci potessero essere cose diverse dopo una buona partenza, poi ci sono state quelle due sconfitte pesantissime con Cagliari e Fiorentina che hanno cambiato tutto, e la squadra è più indietro rispetto a quello che ci si poteva aspettare, ma in questo momento io credo che l'interesse dell'Inter sia quello di provare a rimanere calmi, tranquilli e sereni e poi quando sarà possibile sul mercato fare delle cose, ammesso che ci sia la voglia di farle. A me sembra che essersi comunque affrancati da un pezzo di passato glorioso, meraviglioso, nobile, fantastico, scegliete gli aggettivi, fosse comunque necessario per voltare pagina e per guardare avanti. In questa squadra un pochino di talento si intravede, non è certamente una squadra da scudetto, ma una squadra secondo me che ha una sua logica, e sicuramente la Mazzarri mi aspettavo di più fin qui, però ripeto, oggi non, secondo me ancora io gli darei fiducia. Convocati. Buongiorno Luca da Genova. Ciao Carlo. Ciao. Buongiorno a tutti, saluto te e tutti e Pardo. Sì, io sono da Genova, parlato di Ferrero. L'Atlante che sono tifoso della squadra di Genova. Della squadra di Genova, cioè con la blu cerchiata. No, l'unica squadra di Genova. No, due, Carlo. Ce n'è due. Carlo, dai, fa bravo. No, ce n'è uno. Okay. La qual è? Fa bravo. Carlo, allora, mi sembra un massacro contro Ferreira, mi sembra un massacro. Ha fatto una battuta. Ah, intanto mi scoccia che mi senti bene? Sì. Senti, mi scoccia che chiama adesso e l'altro di tuo collega, diciamo così. Ti mostri Timossi non c'è più. Ha detto che lui li ama, i politicamente corretti. Ha parlato lui che Pecciosi è suo amico. Cioè, dico io, aveva cena assieme. Cioè, Timossi sta zitto, perché il secolo è genuano, lo sanno tutti. Però se la Pecciosi rideva, come si rideva. I giornalisti siete così cari, i giornalisti. Se la battuta la fa uno, se la fa il vostro padrone, fa ridere. Se la fa un altro, che fa il derby. Siete un po' così furbi dei giornalisti, Carlo? Ma non lo so, Luca, non lo so, non credo, non tutti, non in questo modo, certamente non così legati alle questioni e alle vicende di tifo, almeno io no e Pardo pure. No, parlo ma anche a nome, mi permetto di parlare anche a nome tuo, eh? Sì, ma anche a nome di Timossi, cioè io lo leggo non tutti i giorni, onestamente, lo leggo qualche volta all'estate al mare quando devo preparare le partite di Genoa Samp e non lo so, non sia vero, non penso che un giornale importante come il Secolo possa essere genuano o sampdoriano, penso che pensi a raccontare quello che succede in città. Detto questo, io su Ferrero ribadisco, secondo me è una gaffe, sicuramente è una gaffe e quindi deve essere condannata. Penso che sia, non ci vedo del marcio, non ci vedo una premeditazione, non ci vedo una cattiveria, ci vedo un errore di comunicazione. Devo dire anche una cosa, che in questi ultimi, guarda, mi ricollego a un tweet che ha fatto il collega Tancredi Palmeri, che è un freelance che lavora per Bein Sport eccetera, qualche minuto fa, che ha detto che la sensibilità su certi temi degli over 45 duole dirlo, ma forse è un po' più bassa. Cioè, io credo che negli ultimi anni ci sia, e quindi grazie a Dio le giovani generazioni stanno lasciando con questa cultura, molta più attenzione a tutta una serie di aspetti di correttezza, no? di politicamente corretto, su tutti i discorsi legati a questioni di genere, a questioni di tendenze religiose, di provenienze. Cioè c'è un'attenzione molto diversa. 20 anni fa o 30 anni fa probabilmente la battuta di Ferrero sarebbe stata liquidata come una battuta alla barra. Oggi, grazie a Dio, lo sottolineo, fortunatamente c'è molta più attenzione a non andare a urtare giustamente la suscettibilità di gruppi umani di vario tipo. Senti, e quindi secondo me molto giustamente ci si è indignati per questa battuta, ma ripeto, io non ci vedo una particolare cattiveria, non ci vedo assolutamente premeditazione, ci vedo forse una certa disabitudine di Ferrero dal punto di vista della comunicazione, unita alla sua simpatia o comunque insomma alla sua esuberanza, che fa sì che in certi momenti magari possa perdere un po' la brocca, come diciamo a Roma. Senti, no? Ecco. Senti, ti propongo una cosa. Una cosa, mi sono un po' stufato di sta roba e ti propongo di assegnare il pallone d'oro. Già assegnato. Eh? È già assegnato. Ma come già assegnato? Ma che stai di? Ma non mi sei Cristiano Ronaldo, dai, ci sono dei dubbi. No, secondo me no. Secondo me Cristiano Ronaldo terzo. Ferma, calma, in mezzo. Per il anticipato a Bernat, devi intervenire anche Vesso. Di Maria, questo disperato attacco di Ronaldo! Arriva una magia sovrannaturale di Cristiano Ronaldo. Sono 50 in stagione. Secondo te? Per te secondo arriva Müller e terzo arriva Messi, che sai, Messi deve stare sempre sul carrello. Invece io per il secondo posto voto, cioè alla fine un giocatore della Germania campione del mondo, o vogliamo mettere Neuer è il miglior portiere del mondo, un portiere non vincerà mai il pallone d'oro, però medaglia d'argento. Per evitare il contropiede che può partire ugualmente, Müller non arriva sul pallone, pallone per Paulinho, ancora Neuer, Paulinho, una saga cinesca, un vetro. Allora, ha vinto la Champions League, è arrivato in finale ai mondiali, anche se in cattive condizioni, è stato l'oggetto del contendere del mercato, Di Maria non lo vedi come pallone d'oro, Piero? No, non lo vedo, per me il podio è quello che ho detto. Il podio, facendo così il divino Telma, ti dico che per me lo vince Cristiano, secondo Müller e terzo Messi. E detto questo, io voterei primo Cristiano, secondo Müller e terzo Neuer. No, Di Maria non lo vedo, non lo vedo a quel livello lì. Vabbè, mettiamocelo solo noi. Allora mettiamocelo solo noi. E si passa in larga per Di Maria! Il suo nuovo partita! Anche il Di Maria! Al 118esimo sull'assist di Messi! E la palla recuperata da Palacio! Fa 1-0! Tanto è un gioco al quale, come ben sai, non partecipiamo, perché nella lista dei 23 non c'è lo straccio di un italiano, ci mancherebbe altro. L'unico tra virgolette italiano che gioca da noi è Paul Pogba, tra i vari Bale, Benzema, Costa, Courtois, Cristiano Ronaldo, Di Maria, Götze, Hazard, Ibrahimovic, Iniesta e via tutti gli altri. Ci sono però due allenatori, due su 10 non è male, Carletto Ancelotti che ha alzato la decima e c'è anche Antonio Conte, il CT della nazionale, mica male. Io qui voto Ancelotti. Beh, qui votiamo Ancelotti, credo che sia un plebiscito, no, questo? Io voto Ancelotti, credo che sia veramente un allenatore gigantesco, enorme. La qualità della persona si unisce alla qualità del giocatore e dell'allenatore, diventa un valore aggiunto, nel senso che la qualità della persona fa sì, secondo me, che venga amato così tanto dai suoi giocatori e che i giocatori siano in grado di dare il massimo per lui. Da questo punto di vista, il concetto dell'empatia, che è un concetto abbastanza sorprendente, abbastanza aleatorio in certi momenti, abbastanza difficile da definire, però insomma io credo che qui siamo di fronte a uno dei fuori classe dell'empatia. Sì, sono d'accordo, ma anch'io voto ovviamente Carletto Ancelotti. Ma ti sorprende l'inclusione di Conte in questi 10 nomi? Beh no, sotto sono 10, quindi è una short list, ma è una short list insomma abbastanza larga, non così short. E poi secondo me se lo merita, insomma, Conte ha fatto delle cose eccezionali in questi anni, gli è mancata una legittimazione europea. Se avesse vinto l'Europa League, secondo me poteva anche pensare di arrivare in alto nella classifica dei 10. Secondo me invece non arriverà in alto, però è comunque secondo me un risultato meritato questo. Conte è bravissimo, dai, dobbiamo discutere. Conte è bravissimo, ha costruito una grande Juve che ha fatto delle cose eccezionali in questi 3 anni, gli è mancata la legittimazione europea, non è un dettaglio, sicuramente non è un dettaglio. L'anno scorso in Champions League quella roba lì si chiama fallimento, certo, le cose vanno chiamate col loro nome, però Conte è un grande allenatore, è emergente, è in crescita e merita un posto tra quei 10. Allora facciamo così, ci fermiamo per il GR e poi facciamo altre due chiacchiere, 5 minuti, magari parliamo anche di un allenatore che non è in questa lista e che invece sta vivendo un altro gran bel casino. 2 casinacci all'anno non sono pochi per Cesare Prandelli al Galatasaray. In Romagna abbiamo questa espressione per dire che uno fa le cose con leggerezza, senza rispetto degli altri. Lei pure, che tradotto in italiano è poveretto. Correttino, sì. Con un sì o con un no poi ne riparliamo. Rischia davvero Mazzarri, così come si dice? In questo momento, oggi, qui e ora, no. 500 domani, bisogna se lo faccio giocare. È un traguardo per pochi e Gigi credo che abbia meritato e credo che abbia ancora molto da dare e da fare. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Presidente, noi siamo arrivati purtroppo alla fine. Io, insomma, meno male, me ne posso andare? No, faccio più, già caldo. Allora, c'è Pierluigi. Sì. C'è una precisazione di Ferrero che dice, la mia era solo una battuta che è stata strumentalizzata. Agnelli ha detto ben di peggio, ma nessuno gli ha mai fatto nulla perché ha i giornali. Credo che Tohir sia un uomo molto intelligente, non ho nulla contro di lui, volevo solo difendere Moratti, che è un grande uomo, ha dato tanto al calcio italiano. Moratti ha vinto tantissimo e ha investito tantissimo, come il presidente Sensi ci ha messo i soldi, volevo solo difendere l'italianità, questo ha detto parola per parola Ferrero, presidente della Sampdoria, che poi ha aggiunto la notizia che tutti volevamo evitare, che sarebbe entro in silenzio stampa. No. Visto che vengo sempre frainteso, studio da presidente e poi torno. Fai qualcosa. No, ma in qualche modo sono già vittima, perché ieri, insomma, diciamo che c'era un accordo di massima preso sabato sera sul fatto che venisse ieri sera, quindi Quindi diciamo che in qualche modo avevo capito che c'era il silenzio stampa. No, no, ma io ripeto, l'ho detto tre volte, lo dico la quarta, ero sicuro che fosse una battuta, ovviamente mi è riuscita. Sono d'accordo su tutto quello che dice, su tutto quello che dice Ferrero, tranne che sul discorso dei giornali, queste cose qui. Cioè non è che se uno fa un errore deve dire l'ha detto pure quell'altro, ma quell'altro è protetto. Ha fatto un errore il presidente, ma insomma ripeto, io da parte mia non ho dubbi che fosse un errore in buona fede e che non ci fosse nessun intento discriminatorio nei confronti né delle Filippine né dell'Indonesia, né tantomeno di Tohir. Detto questo, così come ci siamo giustamente arrabbiati per mesi per la famosa battuta di Optipo Ba, torniamo al discorso di prima, guarda che non è un dettaglio, cioè siamo entrati fortunatamente da un po' di anni in una sfera di politicamente corretto dal punto di vista del linguaggio, e ripeto, secondo me in maniera giusta, con un'attenzione, una sensibilità che in passato non c'era. Io mi ricordo quando ero bambino l'espressione handicap veniva utilizzata con grandissima tranquillità, c'era anche appunto la famosa federazione sport handicappati, e poi chiaramente c'è stata, si è passato il concetto di disabilità, diversamente abili. Tutto questo secondo me è positivo e costruttivo, perché sicuramente, soprattutto quando si trovano delle persone, dei gruppi umani che possono in qualche modo essere discriminati, ci vuole il massimo del rispetto e il massimo dell'attenzione. Quindi è assolutamente, questa attenzione lessicale è assolutamente molto importante. Ci vorrebbe anche qualcuno che proteggesse invece Prandellone, ti dicevo prima. Cioè vivere in un solo anno due disastri come quelli che sta vivendo povero Cesare mi sembra troppa roba. La nazionale va al Galatasaray, che è una grande potenza del calcio turco, e adesso non ci sono i soldi, c'è un cambio di presidenza, o vogliono cacciare via, becca 8 gol in due partite, gli affiancano un tutor nello staff tecnico, gli reintegrano giocatori che aveva messo fuori rosa, e bisogna fare qualcosa per lui, pure per lui. Che facciamo per Prandellone? Però deve anche aiutarsi un po' lui adesso, sinceramente. Deve aiutarsi un po' lui, dice. Beh, voglio dire, comunque sia, non è che uno è una brava persona solo se vince, cioè ci sono i momenti positivi e negativi. Prandelli rimane un buon allenatore, a tratti un ottimo allenatore, che nei primi 3 anni su 4 di esperienza in nazionale ha ottenuto dei risultati eccezionali, perché la finale dell'Europeo, poi purtroppo l'abbiamo persa molto male negli ultimi 10 minuti, ma la finale dell'Europeo nessuno la immaginava come un traguardo possibile, e quindi per 3 anni su 4 ha fatto benissimo. Poi chiaramente il mondiale non è un dettaglio, insomma è andato malissimo, e quindi adesso continua l'onda nera lunga. Però insomma si vince e si perde la vita, no? Quindi voglio dire, però deve aiutarsi lui, insomma, anche qui non è che sono i giornali o le mandiamo la canzone di Ligabue, nella vita non si può sempre perdere, dai, ma sì, tiriamolo su di morale. Ma certo, non c'ho, ma io volevo parlare un po' di Sassuolo Empoli qua, Vuoi parlare di Sassuolo Empoli? Giocherà per Falico dal primo minuto? A me piace, giocatore, a me piace non poco. Bersanico è buono, è una partita, fra l'altro, secondo me, a parte tutto, che ha dei risvolti interessanti, perché il Sassuolo deve confermare le prestazioni delle ultime due gare molto positive. L'Empoli deve far capire, cioè l'Empoli stasera ci fa capire a che punto è Zemanlandia, no? Magari anche il Milan domani ci fa capire a che punto è Zemanlandia. Sì, anche il Milan domani. Penso che queste due partite saranno abbastanza indicative. Anche se poi con Zeman sai che gli alti e bassi sono sempre al fine del giorno. Però altalena totale. Però la sensazione è che, sai, il tempo di gestazione del gioco di Zeman, l'abbiamo detto, è sempre un po' più lungo, perché è un gioco più dispendioso, perché fa dei carichi fisici durante l'estate molto lunghi, quindi ci sta che ci possa essere un maggiore tempo di apprendimento. È sicuramente un sistema di gioco più dispendioso e più complicato rispetto a quelle di altre squadre, quindi poi però i risultati quando arrivano cominciano ad arrivare per davvero, e quindi insomma sono molto curioso. Tanto Maurizio da Cremona, Vincenzo da Palermo, poi ti saluto. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, sono Maurizio, sono un tifoso interista, un tifoso contro Mazzarri. Per la prima volta domenica quindi sta con la maggioranza. Non ho visto l'Inter, perché non è possibile che un allenatore in un anno e mezzo non è stato capace di dare un gioco alla squadra, non ha mai vinto 3 partite di fila. Secondo me il peggior allenatore assieme a Tardelli che ha avuto l'Inter. Via subito, quindi meglio. Sì, poi c'è anche antipatico noi interisti. Cioè un allenatore deve essere antipatico alle altre squadre, invece lui c'è antipatico noi interisti anche. Povero Mazzarri. Via subito. Via subito. E chi prendiamo? Ma non lo so, io ho sempre visto Mancini bene all'Inter. Mancini. Perché lui anche vuole un sacco di soldi, non con ragazzini dalla prima volta. Toir non li spende secondo me quei soldi per prendere Mancini. Però Mazzarri piglia 3 milioni e mezzo se non mi sbaglio, cioè quindi ho capito, ma se lo mandi lì lo devi pagare, non è che va via gratis. Sì, è vero, ma sono conti che il signor Toir farà, no? È vero anche questo, però secondo me è un danno tenerlo lì ancora. Un danno, lì. Via, lui, via, antipatico. Via, questo è Pierluigi, questa è partita della maggioranza, tutt'altro che silenziosa, tu lo sai. Sì, questa è partita della maggioranza e ripeto, secondo me c'entra molto quell'aspetto lì della simpatia, al di là dei risultati, poi se vinci nessuno sta a guardare se sei simpatico o meno, però insomma quando i risultati sono così, secondo me non sono catastrofici ma non sono ovviamente troppo positivi, la simpatia o l'empatia meglio con il tuo popolo, con la tua tifoseria fa la differenza e qui Mazzarri non è messo benissimo, insomma sicuramente. Poi ripeto, i tifosi dell'Inter, probabilmente anche questo ascoltatore, lo scorso anno si sono lamentati moltissimo per tutta una serie di episodi arbitrali, quindi se la pensano in questo modo dovrebbero poi fare 2+2 e riconoscere a Mazzarri qualche punto in più rispetto a quelli che ha realmente ottenuto, siccome tutta la stagione scorsa era un coro continuo, e allora nelle due l'una, se è vera questa cosa qui, ammesso che sia vera questa cosa qui, cioè che l'Inter l'anno scorso è stata non fortunata dal punto di vista arbitrale, bisognerebbe anche a quel punto ritarare un po' la prima stagione di Mazzarri, però poi questi sono ragionamenti forse troppo sofisticati. Io sto abbastanza con Claudia che mi scrive, che propone uno scambio Prandelli-Mazzarri, non mi sembra una cattiva idea. Vincenzo Palermo, buongiorno. No, buongiorno a voi, grazie per la convocazione. No, scambio con Prandelli no. Certo, così, no, a bagno tutti e due, povere. Sì, un bel bagno. Vabbè. molto. Niente. Scusate, niente da fare. Allora, interista fino al midollo, posso dire un paio di cosette molto molto leggere? Le dica a Pardo. dica. Le dico al Pardo, sì, grande Pardo, devo dire. Tutto grosso. Vabbè, grande. Dai. Allora, per quanto riguarda Ferrero, io lascerei cadere la cosa, anche perché secondo me è stata una gaffe assolutamente demenziale e quindi fermo. Posso leggervi una frase che ho tatuato nel braccio? C'è scritto: nascerà qui al ristorante l'orologio, ritrovo di artisti e sarà per sempre una squadra di grande talento. Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma. Il nero e l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle si chiamerà internazionale perché noi siamo fratelli del mondo. Capito Ferrero? Fratelli del mondo. E Toirri lo è, non mi lamento di lui e non potendo avere il mo, io preferisco Mancini tutta la vita. Mazzarri fuori. Fuori, Mazzarri fuori. Bisogna chiamare subito Briatore. Una chiave sociopolitica, no? Culturale, no? Ma questa è una cosa secondo me molto bella, insomma, in generale. Del mondo di oggi in maniera particolare, insomma, no? Siamo cittadini del mondo, global, no? Come dicono quelli che fanno marketing, l'incrocio fra globale e locale. Sì, però poi devono giocare i giovani giocatori italiani, quindi non la fai troppo facile tu, dai. Ciao Pier. Dai che c'è Sassuolo Empoli, c'è Sassuolo Empoli, dai. Allora, parlato Moratti sotto gli uffici della Saras, finalmente lo stavo aspettando e mi manca tantissimo. Presidente, mi dice solo come ha vissuto la partita dell'Inter. Bene, ha vinto, quindi ero molto contento. Che stato d'animo dopo le dimissioni? Ma no, cosa ho di un tifoso e di uno che fa sempre parte dell'Inter, perché faccio sempre parte. Grazie. Arrivederci, grazie. Tutto qua, però quanto basta, insomma, è tornato a parlare Massimo Moratti sotto gli uffici della Saras. Ma andiamo anche alle vigilie, non tanto quella di Sassuolo Empoli, abbiamo parlato già molto, lo faremo naturalmente anche domani. Le vigilie invece di Juventus e Roma, a partire da quella di Massimiliano Allegri. Però i campionati non si vincono giocando benissimo tutte le partite o bene tutte le partite. C'è un momento del campionato in cui giochi meno bene, a parte il meno bene nostro sarebbe equivale a dire fare 7-8 occasioni a partita, quindi credo che alla fine non è un meno bene. Domani la Juventus, impegno non semplice a Genova sul campo del Genoa. Nel confronto a distanza potrebbe essere un po' più semplice per la Roma, che riceve il Cesena. Garcia. Ma su questi risultati c'è una partita dove già abbiamo detto tutto, che era contro il primo in casa loro. Di questa partita non c'è più niente da dire, e dopo se un pareggio a Manchester City, un pareggio a Sampdoria che era terzo, sono risultati brutti, allora io non sono d'accordo con questa cosa, ma non dico altre cose, punto, è il mio avviso. Dovrebbe giocare domani, non si sa quanto finirà per pesare l'ordine presidenziale, però domani a Cagliari dovrebbe giocare dal primo minuto al centro dell'attacco Fernando Torres, che ha alzato la cresta. Un reto nuevo para mí, volver a llegar a una liga nueva que no conozco, adaptarme, hacerlo bien, hacerme un sitio importante y venir aquí a triunfar, a ser importante, no a pasar el rato a jugar en la liga italiana, sino a dejar una marca importante, un sitio importante. Non sono venuto qui da voi a perdere tempo, è vero, il calcio italiano non conosco ancora bene, però voglio essere protagonista. E domani giocherà con buona pace l'Inzaghi, Berlusconi, eccetera, eccetera. Federico Ascoli Piceno, 80024 0024, un numero verde, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per la convocazione. Prego. Io sono tifoso laziale, fuori città, nel senso che non vivo a Roma, però... Ogni anno si parte sempre con dei bei buoni propositi, tanto entusiasmo, poi alla fine non riesco a capire perché la Lazio si perde sempre così. No, scusa, ma perché è così? Cioè, dove si sta perdendo? Secondo me, ne parlavamo ieri, la Lazio, che tra l'altro è reduce da una serie di buone partite consecutive, di, se non ricordo male, 4 vittorie, mi sembra. No, io non parlo di quest'anno, Carlo, io parlo delle annate passate, che alla fine sì, ci si può accontentare, però non si fa mai quel salto di qualità. Mi sembra una buona dimensione per la Lazio, una dimensione di una buona borghesia del calcio italiano che aspira a un posto in Europa, che difficile era, ma non impossibile, il terzo della Champions League, ma assolutamente possibile una qualificazione in Europa League, cosa che peraltro si verifica quasi tutte le stagioni. Cioè io da molto tempo non riesco a essere d'accordo con il pessimismo dei tifosi laziali. Parlavamo proprio ieri delle varie pretendenti in questo momento al terzo posto, vacante, che mi sembra l'unico vacante nel campionato italiano, poi il primo se lo giocheranno Juventus e Roma, questo l'abbiamo già capito, lo sapevamo già dall'inizio, l'abbiamo capito già perfettamente, eccetera, eccetera, eccetera. Però tra tutte le altre, e viste tutte quante oggi, mi sembra che a oggi la Lazio sia la squadra che è più equilibrata. Magari il Napoli ha più talento, però dà continuamente segnali di profondo equilibrio, prende un sacco di gol, eccetera, eccetera. L'Inter, ne abbiamo parlato fino adesso, i suoi problemi ce li ha e ce li avrà, anche se dal punto di vista dell'organico non mi dispiace. Il Milan, non credo a un Milan da terzo posto, sempre molto ondivogo, e poi ha, anche in questo caso, ha difetti piuttosto evidenti. La Lazio, tutto sommato, a me sembra la squadra più equilibrata. Ha trovato Djordjevic, che è uno che segna, è ritornato al gol Klose, quindi ha un centrocampo che di lotta e di governo, perché ha comunque inserito Parolo, che è un giocatore della nazionale italiana, ha tenuto Candreva. In difesa aveva Gentiletti, si è fatto male, questa è sfiga, mi sembra davvero un gran giocatore. A De Vrij, che ha preso in Olanda, titolare della nazionale olandese, e mi sembra un altro eccellente giocatore. Insomma, io non riesco ad essere così negativo quando parlo della Lazio, mi spiace. Alessio, provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo intervenire su Mazzarri. Ascoltavo adesso e ha detto una cosa vera sull'Inter, cioè quello che volevo dire io. L'Inter ha un buon organico, purtroppo il suo condottiero non serve a niente. Il problema è quello, perché altrimenti con una squadra abbastanza competitiva non si riesce a capire come mai dopo un anno e mezzo non hanno, sì, ha cambiato squadra, ha cambiato giocatori, ma beh, l'anno scorso non, aspetta, l'anno scorso non mi sembrava, a me non piaceva l'Inter, era uno strano miscuglio tra giocatori che appartenevano al passato, nuovi che non hanno reso quanto dovevano. Io però oggi in tutto questo ciclone di critiche, ma legittime, perché l'Inter non sta incantando, ha avuto la sconfitta incredibile in casa col Cagliari, la brutta partita di Firenze, eccetera eccetera eccetera, poi leggo la classifica che mi dice che Udinese e Sampdoria, non so sinceramente, bellissime fin qui, però non so sinceramente quanto possano resistere, e sono appaiate al terzo posto, di punti ne hanno 16. L'Inter, la tanto disastrata Inter del tanto deprecabile Mazzarri, di punti ne ha 12, quindi 4 in meno, è vero, sono state giocate poche partite, ma non mi sembra tagliata fuori da questa situazione. Il Milan ha 3 punti in più rispetto all'Inter, il Napoli ne ha 14, la Lazio, che dicevo è una squadra equilibrata, ne ha 15, insomma, mi sembra che, insomma, possiamo dire, se l'Inter, andando male, giocando malissimo, con Mazzarri che non lo sopporta nessuno, con gravi problemi di crescita, se in tutto questo casino l'Inter ha comunque 12 punti ed è a 4 dal terzo posto nella zona Champions League, vabbè, non, teoricamente non può che migliorare. Non la pensate così anche voi? 800 24 00 24, numero verde. Io credo che comunque la partita di domani, al di là di tutto, sarà molto importante per il risultato e per il modo, per il futuro di Mazzarri e per questi discorsi, perché se domani l'Inter dovesse giocare ancora una brutta partita e magari perdere, beh, a quel punto credo che il partito di maggioranza potrebbe avere davvero partita vinta. Ci sentiamo dopo la borsa. 800 24 00 24, numero verde. Il calcio in Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa. Tutti convocati. Ringraziamento, una dedica particolare che vuoi fare? Sono tante le persone, ma uno, due, tre, magari un gradino sopra. Beh, sicuramente la mia famiglia, mia mamma, mio padre, che probabilmente mi stanno guardando adesso. Sono sempre stati hanno sempre creduto in me. Nessuno ha mai creduto in me in questi anni e alla fine ho vinto. Sentivi però anche tutti quelli che erano dalla tua parte, al di là della tua famiglia? Sì, sicuramente sì, tutti gli amici che mi hanno seguito, mi hanno scritto mille messaggi e San Giovanni, che ha aperto la bisofila per guardarmi fino adesso. Ti lasciamo le tue emozioni. Beh, ci eravamo lasciati così con le lacrime di Marco Bellinelli, con la storia che ci viene incontro, primo giocatore di basket italiano campione NBA. Riparte nella notte una delle giostre più belle del mondo, appunto il campionato NBA. Marco Bellinelli riceverà l'anello di campione contro Dallas, ma ci sono molti altri temi su questa giostra che riparte nella notte. Allenatore di Bellinelli nella squadra campione NBA sarà un altro dei nostri, Ettore Messina. Sicuramente abbiamo avuto una prestagione abbastanza rallentatore, abbiamo avuto dei fattori molto pesanti come quello di Leonard, Splitter e ovviamente Mills, che è fuori credo almeno fino a Natale, quindi ancora non abbiamo avuto la possibilità di vedere la squadra come speriamo che sia nel corso della stagione. Sicuramente c'è da parte di tutti grande curiosità di vedere come inizieremo, già la prima partita ci darà quantomeno qualche risposta. Questo era Ettore Messina, c'è anche il ritorno di Kobe Bryant fuori da un'infinità di tempo in una squadra, i Lakers, non competitiva, ma subito un derby contro i Rockets. C'è un altro giocatore, c'è un altro italiano che invece abbiamo aspettato a lungo. Lo abbiamo aspettato 18 mesi, ci siamo preoccupati un sacco perché è inutile nascondere la verità. Torna anche Danilo Gallinari. Palleggio per Ty Lawson, arginato da Peles, ricezione da fermo per Gallinari, 7-6-5, passo di incrocio contro Spence, se la butta sul tabellone, oh, oh. Come Moses Malone, oh mamma mia, Danilo Gallinari. Gallinari riesce a non commettere fallo e Jennings perde banalmente il pallone, è un 3 contro 1 che può chiudere la partita. Gallinari si inventa un incredibile dipsy do alla Pitmanovic per la firma della partita e Giavallone dice: ma allora sei davvero mio fratello? E alla Mario Balotelli, a cui ha augurato in groppa a Riccio, non esulta. Però... ma non è un ex dei Bucks. Ma non è un ex dei Bucks, no, ma Balotelli non esulta in generale. Sì, questo canestro lo rivedrete in NBA Action. Il ritorno dell'anno però è un altro. Senti, ma figliolo, cosa ne dici se torno a giocare a casa, a Cleveland? Ma sì, papà, puoi anche tornare, magari vinciamo qualcosa. Torna LeBron James a Cleveland. I asked them first. I didn't explain it to them, they explained it to me. I was like, what do you think about, daddy going back home to play? And he was like, home? You talking about Cleveland? I'm like, yeah. And it was like, okay, you get to play with Kyrie Irving? I was like, yeah. They was like, we get to go back home to our house, and I get to go back home to my old school and my old friends. Like, yeah. I was like, okay, you can do it. And that's how I went. E noi torniamo a parlare con New York con Simone Sandri. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Come stai? Tutto bene? Molto bene, grazie. Tanti ritorni, tante suggestioni, la giostra che riparte, i nomi dei grandi favoriti sono sempre quelli, mi pare, cui si aggiunge quello della squadra del signore che ha parlato adesso. Senti, posso tornare a giocare a casa, a Cleveland? Ma sì, giochi con Kyle Irving, magari vinciamo qualcosa, torna papà. Sì, sicuramente è stata il tema dell'anno, il tema dell'off season, questo ritorno di LeBron, ritorno del cuore e del basket, perché non pensiamo che se Cleveland avesse avuto la prima scelta assoluta e avrebbe potuto così fare quel trade che gli ha rinforzati parecchio con Kevin Love, LeBron James avrebbe andato a Cleveland solo per amore della società, lui voleva andare a Cleveland perché pensa di poter vincere, perché pensa che i big three di Cleveland in questo momento siano i migliori dei potenziali big three di Miami. Per cui va benissimo l'amore, il ritorno a casa, ma è una decisione anche cestistica, non dimentichiamocela mai. E questi Cavaliers sono veramente forti, secondo me sono la squadra da battere adesso. Senti Simone, la linea disturbata, sei a San Antonio per la consegna dell'anello di Marco Verinelli, proviamo a rifare il numero, stai lì vicino al telefono, proviamo a rifare il numero anche perché io voglio parlare anche di grandi rientri, grandi infortunati, lungo dei genti. In estate abbiamo visto Derrick Rose giocare male, peraltro, i mondiali stravinti dalla squadra statunitense. Derrick Rose fuori praticamente 2 anni, infortuni gravissimi. Qualcuno, e io probabilmente sto con questi, ha dei dubbi sul fatto che possa tornare ad essere il giocatore dominante della Lega che è stato, e comunque ci vorrà tanto tempo per rivederlo a quel livello. Le grandi favorite sono quelle che snocciola un altro giocatore che stiamo aspettando da tempo, e cioè Danilo Gallinari. Infortunio terrificante, un'operazione fallita, un recupero molto difficile, un'altra operazione. Adesso Danilo è davvero pronto. Lui dice: i favoriti, i migliori all'Ovest sono San Antonio, lo so, caro ascoltatore Massimo da Varese, l'ho detto, giocano contro Dallas e non con Houston giocherà contro i Lakers, mi pare di non aver sbagliato almeno su questo punto. Le migliori all'Ovest sono San Antonio, poi Clippers, Golden State e magari anche Memphis. all'est, Cleveland e Chicago sopra le altre. Le gerarchie sono abbastanza immutate, dice Gallinari. Sei d'accordo, Simone? Sì, diciamo che secondo me si è un po' rinforzato. Più che rinforzato, c'è, diciamo che è un po' più aperta la lotta al vertice adesso, secondo me. Cioè, sicuramente Cleveland è la squadra da battere, però Chicago si è rinforzata molto. C'è questo punto interrogativo sul ritorno di Derrick Rose, che è un giocatore potenzialmente che cambia completamente gli equilibri. Bisogna vedere in che condizioni fisiche arriva e soprattutto che condizioni fisiche sarà a metà stagione, a fine stagione, durante i playoff. E poi c'è un po' il punto interrogativo Miami. Sono molto curioso di vedere Miami con Lul Dan, questa squadra Bosch leader, diciamo, se riuscirà ad esserlo. E ovviamente, come ogni anno, c'è il grande punto interrogativo legato a New York, a Carmelo Anthony. Certo. Quello è uno dei grandi temi, ma perché tu sai, no? Torna Phil Jackson, è stata una delle notizie più importanti dell'anno. Torna Phil Jackson non in panchina, ma ad allenare, la difficile scelta di un allenatore alla fine Fisher, però una squadra che non sembra molto diversa dalle ultime perdentissime edizioni dei Knicks. No, non lo sembra, c'è questa cultura nuova, la cultura vincente di Phil Jackson, però ovviamente non essendolo lui in panchina, ma essendoci una sorta di suo piccolo clone che sarà Derek Fisher, bisogna vedere in che modo verrà attuata l'attacco a triangolo e se i giocatori accetteranno, se lo accetteranno, perché l'attacco a triangolo comporta anche qualche sacrificio da un punto di vista un po' dei tiri. Bisogna vedere se gente come soprattutto J.R. Smith, ma anche un po' Carmelo Anthony accetteranno di farli, vedremo quello che succederà. Un'ultima cosa, Simone, quanto ci metteremo a ritrovare Gallinari, quello vero? Beh, in pre-season, la prima partita di pre-season ha dimostrato di essere già in forma campionato. Secondo me non ci metterà moltissimo. Denver è una squadra molto atletica, interessante, secondo me anche divertente. Ad ovest è tutto più difficile, ovviamente, ma io sono convinto che farà bene quasi da subito, perché ha veramente voglia di spaccare il mondo, non vedo l'ora di rientrare ed è veramente pronto, perché comunque ha potuto recuperare anche con calma. Secondo me vedremo entro fine dicembre vedremo il vero Gallo. Da Tome? Invece da Tome Olavaola spacca. Io direi che Olavaola spacca. Anni 28, in Europa è un giocatore che sposta, è stato il leader anche della nostra nazionale. Io credo che possa giocarsi a quell'età ancora una carta, una stagione, e poi dovrà decidere. Sì, sono d'accordo. E il problema è che con questo roster costruito da Stan Van Gundy, che è un allenatore che ha un certo tipo di filosofia cestistica, Non è così facile, almeno sulla carta, per Datome conquistarsi minuti. Ha giocato pochissimo in pre-season, ha davanti nel suo ruolo naturale, ha davanti almeno tre giocatori. Bisogna vedere quello che succede. Nell'NBA tutto può cambiare in una settimana con un mezzo infortunio, con magari una buona prestazione. Bisognerà vedere, dovrà avere molta pazienza, e alla sua età e dopo la stagione che ha fatto, sinceramente non è così facile avere pazienza nell'NBA. Grazie Simone, a prestissimo. Grazie a voi. Grazie a Simone Sandri da San Antonio, Texas, dove stanotte, vi ricordo, Belinelli riceve l'anello di campione del mondo NBA. Tutti convocati. Savina, Agüero, Savina, Agüero, Savina, Kun, Savina, il Kun, Savina, il Kun. Carlito! Sono passati 3 anni, questo è l'ultimo gol di Carlos Tevez con la nazionale argentina. Torna con l'Albi Celeste. Mia domanda, ci voleva tanto per chiamarlo? Non si poteva chiamarlo per i mondiali? Alberto Udine, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti per la trasmissione anche da parte mia, intanto. Grazie. Ecco, niente, io volevo fare un intervento magari un po' forse banale, nel senso che io sono di Udine, chiaramente noi qua ti chiamo udinese, sì. Da qualche anno partiamo sempre, magari a parte l'anno scorso, bene, siamo un caso, siamo lì per caso al terzo, quarto posto, poi ci arriviamo, no? Ecco, quello che dà un po' fastidio è, diciamo, parlo per tutte le società più piccole, magari che arrivano a certi livelli, è che non si ha la stessa parvinità delle altre grosse per il discorso della massa critica, ok? Però, però cosa intende per pari dignità? Cioè, allora, nel senso di dire, mettere l'Udinese stabilmente tra quelle che possono puntare alla Champions League? alla qualificazione ecco, Champions League? Assolutamente no, ecco, solamente che tante volte ho sentito, ma non dalla vostra, in generale, nel novero delle potenziali candidate all'Europa, eccetera, anche negli anni passati, sempre bypassata l'Udinese, altre squadre, anche per l'amor di Dio, ma non presa in considerazione, ecco, fino alla fine magari che è arrivata terza, quarta. Certo. Questo è un discorso che magari si può comprendere nella massa critica dei tifosi. Secondo me non è una questione di massa critica, Alberto, è questione del fatto, io l'ho detto molte volte, l'Udinese secondo me è il miglior esempio di gestione sportiva in Italia dal punto di vista calcistico. Poi è chiaro che alla fine, quando si compilano le griglie di partenza, vai a leggere i nomi e dici: non è una questione di massa critica, è una questione di nomi. Poi a Udine salta fuori Pereira, c'è stabilmente Di Natale, che tanto probabilmente l'avete clonato, non è più lui. Suo fratello più giovane, saltano fuori Benazia, saltano fuori giocatori di questo tipo che all'inizio non sono accreditati e poi per la centesima, milionesima volta scopri che a Udine hanno lavorato magnificamente e questi giocatori puntualmente esplodono ed ecco che l'Udinese dal centro della griglia di partenza salta nelle prime posizioni del Gran Premio e lì meravigliosamente rimane, ma non è una questione di massa critica, Alberto, secondo me l'Udinese è semplicemente, capitano annate storte in cui si fa un po' più fatica, magari per l'appunto c'è il giocatore su cui puntavi e non diventa quello che ti aspettavi. Ma questo può capitare, ma assolutamente non è una questione di massa critica. L'Udinese è lì con pieno diritto come la Sampdoria, e merita uno dopo l'altro i punti che sta conquistando. Nicola Modena, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Io volevo un attimino lanciare un messaggio a Mourinho tramite voi, perché è impossibile parlare con lui. Esatto, a Mourinho, sì, no, io sono interista sfegatato e nessuno dimentica quello che ha fatto. Volevo riferirmi un attimino anche a sentire il vostro discorso. Mourinho fu esonerato dal Chelsea, arrivò all'Inter dove non aveva vinto quasi nulla e ha fatto quel magnifico lavoro. Aspetta, poi ha provato cosa vuol dire non aveva vinto quasi nulla? Chi? L'Inter? Al Chelsea, no, Mourinho al Chelsea. Fu cacciato. Beh, non aveva vinto la Champions League, aveva vinto uno scudetto subito pronti via, cosa che al Chelsea non succedeva da molti anni. E poi seconda stagione difficile, sappiamo bene come l'obiettivo di Abramovic fosse l'ossessione di Abramovic fosse la Champions League, non è riuscito a centrarla, è partito male la seconda stagione, è venuto via. Esatto. Mi riferivo maggiormente che essendo aveva fallito in Champions fu esonerato. Bene, Mourinho provò dopo dell'Inter a vincere la Champions anche a Madrid e non ce l'ha fatta. Bene, io gli lancio una provocazione. Riduciti lo stipendio, ricostruisci l'Inter e dimostri il valore che sei perché è il numero uno. Lo farebbe? No, assolutamente. Ma non ci pensa neanche. Ma secondo me, ma lei lo farebbe? Beh, lui ha dimostrato e ha detto di amare quei colori. Nicola, lei lo farebbe. Fosse Mourinho, lei lo farebbe. Beh, con tutti i soldi che ha non ha bisogno di guadagnare tanto. Per dimostrare qualcosa a qualcuno forse lo farei. No, io non lo farei e non ci credo che lo farebbe lei. Perché non per questione di affetto, Mourinho è un signor professionista. Guardi, più che altro per questioni tecniche. Cioè Mourinho è comunque un allenatore che si fa strapagare perché è bravissimo, è insieme ad Ancelotti il migliore di tutti nel gestire grandi ambizioni di grandi club, grandi contratti, spogliatoi difficili eccetera eccetera, è il migliore di tutti, si fa giustamente strapagare, però lui vuole andare ad allenare squadre dove può vincere. Praticamente il campionato inglese lo ha già ipotecato, chiuso no, perché sarebbe una pagliacciata dire un campionato chiuso a ottobre, però mi sembra nettamente una squadra irraggiungibile per il campionato inglese, il Chelsea. Tutti, a partire da Paolo Condò, di cui mi fido ciecamente, dicono che questo Chelsea addirittura può giocarsela in Champions League contro il Bayern di Monaco e contro il Real Madrid, che a mio parere sono quasi inavvicinabili. Dunque, con tanti soldi, con tanti giocatori, Mourinho sta costruendo un'altra, ha costruito un'altra squadra estremamente importante. Quindi non ne farei tanto una questione di riduciti lo stipendio e torna a far grande l'Inter. Lui potrebbe rispondere: vabbè, io posso rinunciare, non farà, posso rinunciare a sti 5 milioni, ma però mi prendete i giocatori. Bisogna vedere se tu gli riprendi i giocatori. Io non credo. Mauro Vicenza, buongiorno. Ciao, buona giornata e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo parlare di Ferrero. Io ho seguito in silenzio stampa, tanto in silenzio stampa. Vabbè, però io vorrei che si smettesse di dire sì, è un personaggio, è fatto così e tutto quello. Cioè, non si può dire che è un imbecille. Cioè, francamente, se tu conosci una persona al bar così e ci scambi due chiacchiere, sì, e ci dicendo è un imbecille, non si può dire che è fatto così, è simpatico. Allora, lo si invita nei programmi televisivi perché fa ascolto, non perché è intelligente o sa di calcio. Perché? Allora, se tu devi valutare una persona, allora, dire che Mauro, è un imbecille. Mauro. La cosa giusta l'hai detta all'inizio, cioè se tu conosci una persona al bar o dove ti pare, ci senti parli, la senti parlare in quel modo, ci parli, poi dopo averla conosciuta personalmente, allora dici questo mi sembra un imbecille. Io Ferrero non lo conosco, lo vedo in TV come lo vedi tu. In alcune uscite mi fa molto ridere, devo dire la verità, in altre sinceramente no, e qui sono d'accordo con quanto ha detto prima Timossi. Però in un mondo dello sport in cui si parla per frasi fatte, in cui i personaggi non esistono, se c'è qualche volta c'è qualcuno che esce dalle righe e magari dice anche qualcosa di eccessivo, non di stupido come ha fatto, ma di eccessivo, vabbè, teniamocelo fino alla prossima. Fate le due risate, li vedete tutti seri. Ma di dire che è un imbecille io non posso farlo. Il signor Massimo Ferrero io personalmente non lo conosco, quindi per me non è un imbecille. Franco Piantenida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattoni in redazione, ci sentiamo domani alle 2. Ma che buongiorno, allegri. Sarò felice quando questa storia sarà finita. E ormai ci siamo. Voglio dire, lunedì mattina alle 10 hai la conferenza stampa, giusto? Sì. Hai già preso una decisione? Sa che c'è, questo sì, questo sta diventando un tormento. Vede che me lo chiede lei, il mio coach non mi disturba, ma ogni volta che passo per i corridoi... Dove andrai? Dove andrai? Hai già scelto l'università? Dove andrai? Dove andrai? Perché lunedì mattina, d'accordo? Non ne posso più di questa domanda. Ti capisco, senti, forse la cosa migliore è prenderla come un complimento. Alla gente importa veramente di te. Alla gente non importa di me, importa solo di se stessa. La gente cerca di vincere prendendosi un pezzo di Gesù, nient'altro. Ah, non sono tutti così miserabili. Alcuni sì, non mi fa intendere, ma non tutti. Ok? Tutti convocati.